Eh beh, è uno stacco pesante, come d'altronde pesante la musica di Toto Giso, anche se c'entra ben poco intanto con il Giappone, anche se è un gioco anche legato ovviamente a quello che stava succedendo proprio in quegli anni, stiamo parlando insomma degli anni 90, fine anni 90, quando il noise giapponese di fatto stava diventando qualcosa di conosciuto. Ovviamente non si sta parlando di mainstream, comunque in termini underground molto conosciuto in termini appunto di culto, poi per molti aspetti legati anche alle performance, anche piuttosto così estreme, potremmo dire, di Merzbo e compagni. O Toto Giso è in realtà progetto legato più a Schoonflower, quindi di matrice europea, inglese, Matt Brower in questo caso, che rispetto a Schoonflower, che sono sicuramente più legati a un suono psichedelico, sempre noise, non si fanno mai mancare il noise, ma con appunto Toto Giso, se Schoonflower appunto si muove su un psycho, una sorta di psicalia molto psicotica noise. Per quanto riguarda invece l'altro progetto, tra i vari insomma di Matthew Brower o Toto Giso in questo caso, che abbiamo appena ascoltato, si muove invece verso un suono noise statico, si potrebbe dire, quindi se di psiche, la psiche vuole essere colpita, ma con un rumore che appunto si erge a muro sonoro e che si fa anche per certi versi insomma sottile, quasi a creare appunto una specie di linearità estatica, una trance potremmo dire, legata appunto a questo Wall of Sound, e con questa seconda ora di 451 legata ai noiser, ai rumoristi insomma. Beh, non potevamo non omaggiare un grande agitatore musicale, ma anche politico, controculturale, il grande Mark Stewart, che ci ha lasciato qualche giorno fa in maniera così, ma piuttosto improvvisa, non particolarmente anziano, anzi poco fatto insomma i 60 anni, quindi e poi ancora decisamente in forma, chi ha potuto vederlo insomma avrà notato insomma una certa verve, una certa grinta che non è mai, tra l'altro, non è mai mancata a Mark Stewart, sia in termini insomma di anticapitalismo militante, sia in termini di sperimentazione musicale. Ecco, quando veramente il linguaggio sperimentale va a trovare anche la sperimentazione appunto politica, quello che appunto il marxismo poi di fatto come opera radicale, ma essendo anche nell'apertura radicale, nel senso appunto di opera aperta, di possibilità date dalle musiche in termini di linguaggio, in termini anche così di linguaggio artistico, che va poi a tutt'uno con quello politico, quindi con quello che è poi una parabola eccezionale come quella di Mark Stewart, che partiva appunto da pop group e arrivava fino ai nostri giorni. E in effetti voglio proprio così omaggiare il grande con Mark Stewart, con KK Null, con un momento insomma noise alla maniera di Stewart, che tante volte ha utilizzato il rumore dentro appunto questa opera aperta, questa macchina che riusciva ad assorbire, a rimangiare anche suoni commerciali, se pensiamo insomma all'album omonimo, dove prendeva addirittura schitarrate hard rock, per fare diventare un suono tra industrial e suono una sorta di danza anche liberatoria, e poi veramente anche quell'approccio critico rispetto alla tecnologia, quindi un utilizzo sempre in chiave di composizione aperta, data appunto dal piano tecnologico che veniva utilizzato in maniera egregia da Mark Stewart, e decisamente appunto creativa, spiazzante, anche come anche nell'ultimissimo lavoro di un paio d'anni fa, insomma, tutto sommato poco tempo fa, di appunto Mark Stewart, un versus, varie collaborazioni, anche in questo senso decisamente aperto. Mark Stewart, Keke Null storico, ecco, questo sì, noiser giapponese, che si confronta appunto con questo nuovo errore, New Error, Mark Stewart appunto un addio, ecco, da 451 frammenti sonori insieme a Keke Null, un addio che per uno non è di certo, insomma, linguistico, artistico, perché insomma di cose ne passeranno ancora qua 451, ma soprattutto insomma rimarrà la musica, probabilmente insomma quello che è un atteggiamento, un'attitudine, sarà sicuramente feconda anche rispetto, e seminale rispetto alle prossime sperimentazioni che Mark Stewart sicuramente, come dire, facendo una sorta di testimonianza dialettica, ecco, passerà più giovani, ma anche a quelli meno giovani, se pensiamo appunto più o meno coetaneo, ma un po' più giovane che Keke Null, che in questo caso appunto si diletta con i suoi rumori e quelli appunto di Mark Stewart. The New Era. The matter machine, matter machine. Yes, the weapon. Yes, the weapon.

read the newspaper today will be familiar with this number. Thank you. Mark Stewart insieme a Keke Null con la New Error, come cantava con quel cadenzato incredibile di Stewart, anche lì, ma sempre con quel piglio militante, che era un tutt'uno, insomma, quindi non poser o facendo, insomma, come dire, appiccicate lì, ma tutt'uno con l'essere umano, appunto, Mark Stewart. Poi abbiamo recuperato Fatrix, Casazza e Zev tutte e tre insieme, insomma, per non farci mancare, ecco, come avevo detto nella prima ora, insomma, che ho messo soltanto Casazza e basta. Ho recuperato appunto nella seconda lo storico trio, e così è stato. Abbiamo sentito con Kick Tet Habit anche qua nei pressi, insomma, di una sorta di rito sciamanico, però, insomma, dentro discariche urbane, e quindi con tanto di immaginario protodistopico, ecco, una parola che, insomma, va decisamente molto da qualche mese, magari tra qualche tempo, insomma, cadrà in disgrazia e ulteriormente, insomma, sarà legata proprio al Riser, dopo la cancellazione della mente, quindi come prossimo step, ecco, in questo senso distopico, ecco, e quindi, appunto, con i tre abbiamo toccato quel rumorismo che andava tanto a impattare con certo post-punk, quello di Fatrix, come quello di invece industrial del creatore, insomma, del concetto e della formula che sarà, insomma, archetipa, se vogliamo, insomma, utilizzare un archetipo come uno dei tanti, insomma, ma che in questo caso è un archetipo, appunto, caduto in disgrazia, quindi forse lo utilizziamo proprio in questo senso, con tanta ironia che diventa satira, se non sarcasmo, appunto, con Casazza, che veramente ne ha create di ogni. Industrial People, music for industrial music for industrial people, appunto, una delle tante. E poi Zev, appunto, forse il personaggio che riesce a elevare rispetto, ma sempre come con forme, insomma, di tra cyberpunk e forme, insomma, veramente di sciamanesimo, che è industrial, che veramente ha dell'unico, se non proprio dell'eccezionale, con Zev, insomma, riuscire a fare suonare betoniere e quant'altro, con anche un disegno, appunto, metaforico, quindi andando anche fuori da quello che, insomma, è un suono che di fatto, insomma, ci porta dentro l'industria, anche quella pesante, se vogliamo, appunto, con tutto l'armamentario di percussioni recuperate di Zev. E poi abbiamo sentito i cattivi, più cattivi di tutti, Philip Best, Kevin Tompkins e William Bennett, ovviamente, più Peter Sotos, ma di mezzo c'è passata, insomma, un bel po' di altri brutti ceffi, da Steven Stapleton, Andrew McKenzie, quindi Nurse to Be Wound, a Fel Trio, insomma, varie genie di guastatori, di sperimentatori, noise, terror terroristi, Dada e quant'altro, insomma, si possa immaginare rispetto a uno dei suoni più iperbolici di sempre, quello di White House, per intenderci, che abbiamo sentito tra l'altro con una collaborazione con un altro personaggio che abbiamo inserito però in Noise Rock, ovvero Steve Albini, che dopo 5 anni di ferma di White House proprio si prende sulle spalle, come dire, questo peso che sembrava morto, in realtà più che vivo, e dopo appunto Great White Death del 1985, nel 90, anche su impulso di Steve Albini, non soltanto suo, e appunto da di storici White House, insomma, modo di recuperare le forze e ritornare più cattivi appunto che mai con Thank Your Lucky Star, pezzo appunto scritto tra l'altro con da William Bennett insieme a Steve Albini, che ricordiamo, insomma, tanto per capire anche che si potrebbe trattare anche di mainstream, anche di grosso mainstream, perché Steve Albini, insomma, ha prodotto In Utero di Nirvana, tanto per dire, insomma, una cosa che è poi andata a, come dire, anche sì, in termini di successo, ecco, di mainstream, è andata piuttosto bene, ma tant'è che la radicalità, insomma, di Albini non si è mai assopita, dottora. Ogni tanto graffia ancora, e soprattutto graffia ancora il suono di White House, che appunto da Thank Your Lucky Stars, e dal 1990 appunto hanno continuato fino ai nostri giorni. Poi Bennett si è inventato varie diavolerie ancora, insomma, in forma, e soprattutto, insomma, se pensiamo ai citati Kevin Tompkins con Sutcliffe Jugend, Philip Best con Consumer Electronics, quindi il Power Electronics nel massimo, insomma, della suo non splendore, che di splendore qua veramente c'è ben poco, ma probabilmente, insomma, del suo massimo di sperimentazione, ecco, per quanto, insomma, sia un suono che potrebbe essere anche chiuso, in realtà, insomma, aperto un altro modo, insomma, di concepire il noise elettronico. Se pensiamo poi appunto che William Bennett viene da Essential Logic, quindi da gruppo post punk, per quanto radicale, insomma, in pochi mesi Bennett si inventa appunto questo suono di sana pianta, tra l'altro se lo inventa creando appunto quello che poi è stato definito appunto Power Electronics, e campeggia una foto così su 451 di Joe Caidan, una delle tante performance incredibili di questo progetto, sì, eccezionale veramente sotto tutti gli aspetti, sia performativo che sonoro. Prima accennavo a quanto negli anni 90 fosse poi sdoganato quello che appunto era chiamato Japan Noise, non soltanto con Merzbo, ma anche con appunto i Joe Caidan, Incapacitans, che tra l'altro sono una parte anche di appunto i Joe Caidan, per dire, insomma, forse un po' più alla giapponese, e vero giapponese come quello di Keke Null. Andiamo a prendere appunto da uno dei tante tanti, non tantissimi però, perché, insomma, una delle caratteristiche di tanti progetti noise è quello di essere molto prolifici e fare molti dischi. I Joe Caidan in realtà non ne hanno poi così tanti, perlomeno, insomma, a paragone dei loro colleghi noiser, ecco. Romance, appunto, un'idea di romanticismo, e come che ci dà appunto il storico combo giapponese, che andiamo appunto ad ascoltarci per omaggiare, insomma, un'arte anche performativa legata al noise. Peccato non averli visti, e chissà, magari se ci sarà ancora possibilità di vedere la performance, appunto, noise anche in termini di impatto scenico, ecco, di appunto i Jōkai Dan. temibilissimi, musiche temibili come quelle di John Vise insieme a Wolf Eyes, progetto era Walk, appunto, per così ribadire, come dire, una sorta di internazionalità anche del noise, che poi si incrocia anche perché Joe Caidan, ad esempio, ha collaborato con alcuni di White House, come d'altronde Joe Caidan hanno collaborato con Airways, che chiuderanno, insomma, da qualche secondo questa trasmissione, e come si unisce in questo caso, ad esempio, quello che facevo poc'anzi, sia a Londra con appunto un Giappone di Joe Caidan e parte dei White House, e invece California per quanto riguarda Los Angeles, per quanto riguarda gli Airways, come d'altronde californiano è John Vise, anche se, insomma, con questo nome, ovviamente, insomma, pronuncia da così da portare, insomma, al tedesco, al teutonico, molto molto giocoso, tra l'altro, Vise, e che con Wolf Eyes si fanno temibili, ma hanno sempre una specie, insomma, di strana forma di ironia, di follia, ecco, che riporta anche ad esempio, per quanto mi riguarda, vedendo i Wolf Eyes, insomma, sono anche molto molto divertenti, ecco, se ovviamente, insomma, avete gusti forti, ma insomma hanno delle trovate punk ironiche veramente eccezionali. John Vise, insomma, anche questa estetica, così ogni tanto, anche così, riuscendo a prendere per il culo, insomma, le varie patinature, quindi ha questa capacità, unendosi, appunto, e quindi unendo due progetti decisamente dediti al noise, seppur il noise, insomma, molto molto creativo, sperimentale. Spero, insomma, in questo senso sia stato un buon viatico questo dei vari 451 frammenti sonori dedicati al noise, proprio per così dare quella possibilità d'ascolto e anche, insomma, ecco, approcciarsi tra le musiche, insomma, sicuramente più creative di sempre, insomma, utilizzare il noise è decisamente difficile se non fatto in chiave banale, insomma, e quindi così semplicemente così ottondente, ma insomma non credo che anche un ascolto così superficiale, per chi perlomeno, insomma, così voglia rischiarsi con avventure musicali, si trovi con insomma, le cose ascoltate ad annoiarsi e considerarlo soltanto, insomma, ottundente questo processo, questa possibilità sonora creativa, appunto, data dalla noise music, insomma, se non volete chiamarla musica, non lo fate, di fatto comunque è un linguaggio. E Airways, per chiudere, appunto, con Storico, forse il disco, insomma, se una zona Rai, cosa dicono, una zona Rai che comunque anche lì è faccenda di Cagenino, quindi anche di giapponesi, ma le aziende nude, volevo dire, si affondano nei primi anni 70 con veramente i primi esperimenti di noise music. Beh, con Airways non andiamo tanto lontano, fine di quel decennio, se riuscivano con Live at Lace, disco assolutamente eccezionale per l'epoca, ma che tuttora, insomma, rimane sicuramente una pietra miliare del noise, sempre ammesso e non concesso che ci siano punti pietre miliari del noise. Max Macchia vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo 451. Fate i bravi se ci riuscite, se ci potete fare quant'altro, fatelo. Ciao.